Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi. Dica a Sua Eminenza che invierò quella persona nell'orario a lui più conveniente. Si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. Voglio sapere perché De Pedis ha gestito il sequestro di Manuela. Renatina ha soltanto eseguito un ordine. Tu lo sai che nessuno ti crederà. Cosa può esserci di così terribile da indurre il Vaticano al silenzio? Mi hai mentito, vero? È indubbio che il caso Emanuele Orlandi ormai galleggia nell'immaginario con tutte le soluzioni possibili e immaginabili, ma in realtà, nella realtà dei fatti, non ha ancora una soluzione. Ogni volta che si parla di Emanuele Orlandi è come quei segreti che tutti sanno, tutti conoscono. Tutti sanno esattamente, o perlomeno per sommi capi, qual è la retroscena, ma nessuno sa dare a questo la certezza di verità. Cosa è accaduto a Manuela Orlandi? Che fine ha fatto Manuela Orlandi? Cosa c'è dietro questa storia che inizia nel 1983, il 22 giugno, quando una ragazza quindicenne, figlia di un membro della prefettura pontificia, è scomparsa. Da allora le illazioni sono state tantissime e c'è di mezzo tutto, se elencate. Esiste di mezzo l'aspetto della corruzione, dei costumi dal punto di vista del denaro, dal punto di vista della concupiscenza e della lussuria. Esistono gli intrighi internazionali, le grandi vicende che hanno mosso il mondo, il cambio totale di assetti in Europa. Esiste la segretezza delle stanze più sacre del Vaticano, nel quale può passare di tutto il contrario di tutto. Esiste la malavita organizzata, esiste la banda della Magliana, esiste la fiction, tutti gli incroci possibili di fiction immaginabili. Da Dan Brown a la storia della banda della Magliana ci passano dentro. Nonostante questo, nonostante le puntate di chi l'ha visto, libri sono stati scritti, supposizioni, siti internet, appelli delle famiglie, appelli al Papa, papi che hanno parlato, nessuno ha detto una parola finale. Ci sono tutti gli elementi, ma nessuno sa esattamente cosa è successo. E adesso riparlo nuovamente di Emanuela Orlandi. Se ne parla oggi su tutti i giornali, perché un regista che è abituato a fare il film d'inchiesta, che è un genere antichissimo, efficacissimo, molto poco usato, perché oggi le inchieste le provano a fare molto con tentativi molto poco efficaci nella nostra televisione, ma comunque è un genere comunque televisivo che funziona, le fanno i grandi e seri giornali, li fanno i magazine, li fanno i giornalisti liberi, ma li fa anche il cinema. Roberto Faenza ha fatto un film, La verità sta in cielo, uscirà il 6 ottobre nei cinema, ma è già stato anticipato da segni sinistri. Verificherò questa mattina se sono un'abile strategia di lancio di un film o se realmente, come leggo sui giornali, fanno di tutto per bloccare il film. Leggo il titolo su un giornale, Faenza dice fanno di tutto per bloccare il film. Film su Manuela Orlandi davanti alla stampa, il fratello della ragazza dice fa un appello al Papa, la Chiesa ha alzato un muro, Bergoglio ci aiuti a far luce. Beh, noi non è che pretendiamo questa mattina di far luce, ma riaffrontiamo ancora una volta con tutte le parti in causa, perlomeno in quest'ultima fase della vicenda Orlandi, quello che può essere comunque un possibile avvicinamento alla verità. 800240024, tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi riaffrontiamo il caso di Manuela Orlandi. Non è che lo affrontiamo con pretese di dare noi una soluzione che è stata così difficile a trovare in tutti questi anni, ma vogliamo semplicemente capire Alla luce di questa notizia che oggi campeggia in tutti i giornali, se esattamente ci sono stati dei sintomi di resistenza o di tentativo comunque di non grande diffusione dell'idea che un regista serio impegnato come Roberto Faenza abbia deciso di trattare in un film il caso Emanuele Orlandi. Ma ci dirà lui stesso. Roberto Faenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Roberto Faenza sta per uscire al cinema il 6 ottobre, uscirà La verità sta in cielo. Già il titolo è emblematico, è quello che ha detto il Papa al fratello di Emanuele Orlandi, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Può voler dire Dio lo sa, o può dire tua sorella ormai sta in cielo, quindi è inutile che state a cercare altre cose. Qual è il motivo per cui lei, Faenza, ha dato questo titolo innanzitutto? Perché è fondamentale saperlo. Beh, perché avendolo detto il Papa mi sembrava anche coerente. Io però penso che il film dica esattamente il contrario, cioè la verità sta in terra. Tra l'altro, guardi, la scena è un film scabroso e già oggi vedo polemiche, minacce, cioè cose tipiche dell'Italia. Ma ce le racconti sua, Faenza. Qual è stato il livello delle polemiche e delle minacce? Poi i titoli dei giornali dicono poco. Basta andare in internet e vedere tutti gli amici di De Pedi sopravvissuti, cosa dicono di non andare a fare il film, di fare attenzione a farlo uscire. Tutte cose assurde, cioè siamo in un paese sconcertante. Quindi diciamo è l'area dei fiancheggiatori della banda della Magliana che le dicono stai attento. E giornalisti da loro prezzolati, però non è questo il problema. Io penso che invece ci sia una cosa molto seria. Nel film c'è una scena finale molto importante che lancia un assist al giornalismo investigativo, perché mette sulle tracce di quello che potrebbe essere veramente la soluzione del caso. Questa soluzione secondo me sta in Vaticano. Allora io penso che questo ultimo metro che manca per scoprire finalmente la verità possa essere percorso. Ecco, il film vuole raccontare questo. Questo però, Faenza, diciamo, tutte le persone che hanno un punto di vista laico sulle vicende del mondo se lo sono dette ampiamente. Se l'ha detto Pietro Orlandi, che è in collegamento. Pietro Orlandi, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è sempre stato convinto, fratello di Emanuele Orlandi, che in realtà la soluzione sta in Vaticano, e lei fa appelli a tutti i papi che si sono alternati da allora, nessuno gli ha dato una risposta, quindi se no le farebbe a qualcun altro gli appelli. Tre pontificati sono succeduti. Lei a tutti i papi ha detto fate qualcosa, e tutti gli hanno detto sta in cielo, qualcosa del genere. Ma soprattutto perché Emanuele era una cittadina vaticana, quindi mi sembrava logico per primo fare loro. Ma no, c'è stato sempre un muro altissimo da Papa Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger e anche Francesco, che non me l'aspettavo. Ma quando lui mi ha detto quella frase, Emanuele sta in cielo, io in quel momento ho pensato che forse c'era la possibilità di una collaborazione, della volontà da parte loro di arrivare ad una soluzione. Ho fatto tantissime richieste a lui, al suo segretario. Secondo lei cosa voleva dire del Papa quando ha detto Manuela sta in cielo? Cioè, è quello che avrei voluto sapere quando... Perché è ambigua come cosa, può dire tua sorella è morta oppure la verità la sa solo Dio, potrei dire entrambe le cose. Un modo delicato come per dire Manuela è morta, Manuela sta in cielo. O la solita frase da prete che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Però da quel momento non c'è stata più nessuna risposta da parte loro. Il muro si è alzato più di prima. Ma allora, Pietro Orlandi, visto che lei è andato tante volte in televisione, è stato intervistato tante volte, cos'è, me lo può dire, cos'è profondamente, radicalmente, sinceramente, che ancora le fa pensare che la verità sia lì? Sarebbe lunghissimo da spiegare. Beh, lo sintetizzi però. Innanzitutto il loro comportamento in questi 33 anni. Io l'ho sempre considerata la mia famiglia in Vaticano, sono nato là dentro, mio nonno è entrato in Vaticano nel 1920, e loro hanno completamente voltato le spalle a questa storia, hanno tradito la famiglia in questo senso. Guarda, ci sono delle parole di mio padre prima di morire che mi ha detto, mio padre era un vaticanense al 100%, ha sempre difeso la Chiesa, il Papa. Lui prima di morire ha detto sono stato tradito da chi ho servito, e questo anche per me vale come prova di quello che ci sono delle responsabilità. E su un piano più concreto e più pratico, secondo lei, lo so che sembra radicalizzarlo e semplificarlo, ma cosa è accaduto? Questa reticenza può essere data dal fatto che comunque il Vaticano è lambito da una vicenda scabrosa e se ne tiene fuori perché non vuole nemmeno esserne sfiorato e non vuole dare risposta. No, io penso o c'è qualcosa di più preciso, di più esatto? Io sono convinto che ci sono delle responsabilità all'interno, non del Vaticano come Stato, ma di personalità all'interno del Vaticano. Però a questo punto, proprio seguendo le parole del Papa, che chi tace è complice, in Vaticano ci sono molte persone che sanno e quindi diventano tutti complici di questo fatto, perché chi sa e non dice nulla e pensa di avere la coscienza a posto perché non ha avuto una responsabilità ma diretta. Ma lei è in grado di pensare, di dire qualche nome delle persone? Sicuramente non è che fa un'accusa, sicuramente lui sa. Chi è che potrebbe sapere? Beh, Sono persone anziane ormai, immagino. Secondo me, no, i tre papi sicuramente sono al corrente di quanto è accaduto. I papi lo sanno, quindi sanno tutto. I papi lo sanno. Ai papi però lo dirà qualcun altro che non è il papa, quindi chi lo dice al papa ogni volta lo sa. Beh, io ho parlato, guarda, anche con, cioè sono stato poi sto sempre qui dentro il Vaticano, è difficile da spiegare, ma è il loro comportamento che mi fa credere, che mi autorizza a pensare questo. Chi è il più alto in grado con cui lei ha parlato di questa vicenda, a parte il papa? Segretario di Stato. Col segretario di Stato. Nome? Beh, l'attuale. L'attuale segretario. E cosa le ha detto? È che è rimasto molto, è sconvolto da questa cosa, che ne avrebbe parlato con Papa Francesco, con Papa Ratzinger. Ma quando dice il segretario di Stato è sconvolto, cosa significa? È sconvolto perché sa qualcosa che non le dice, o è sconvolto in generale? Che dopo 33 anni ci sia ancora qualcuno che copre questa storia. Ma lui come segretario di Stato, se sa qualcosa, perché non glielo dice? È quello che mi domando anch'io. Ho parlato con il segretario di Papa Ratzinger, all'epoca Padre Georg. I contatti ce ne sono stati, e ogni volta loro mi dicono sono. Ma Monsignor Parolini ha dato l'idea che lui sa qualcosa? No, la sensazione è stata che... E se non lo sa il segretario di Stato, però è la persona. Lo so. Guarda, io sono sempre stato convinto da sempre, ma perché ci sono le prove a volte. Sai, sei stato negli anni passati, una volta ascoltato un funzionario della Gendarmeria Vaticana, doveva essere ascoltato e mise il telefono sotto controllo. Il giorno prima di andare dai magistrati, intercettarono una sua chiamata con il suo superiore, prima con Monsignor Bertani, poi con il suo capo, e lui chiedeva che cosa devo dire domani. E gli dissero chiaramente: tu della Orlandi non sai niente, e soprattutto non dire che abbiamo indagato, che sta tutto in segreteria di Stato. Quindi in segreteria di Stato, cioè... all'epoca, che in segreteria di Stato, che ci sia la conoscenza di quello, allora, di quello che è successo. Un attimo solo, Pietro, un attimo solo. Dividiamo gli interventi. Fai un respiro e aspetta un attimo. Roberto Faenza, nel suo film è rappresentata questa ambiguità e questi elementi che porta la persona più vicina, insomma, al soggetto di questa vicenda, che è Pietro Orlandi? Guardi, intanto io non sono d'accordo con quello che dice Pietro, che è stato il mio primo collaboratore del film, su Papa Bergoglio. Io sono convinto che Papa Bergoglio non sappia e che non sia stato informato, e anche sono convinto che se vedrà il film che io gli manderò presto, spero che lo possa vedere, si renderà conto che c'è una cosa in più rispetto a quello che dice Pietro. E cioè, qui c'è nel film l'ipotesi, basata su delle fonti a mio avviso accertabili, di una trattativa tra il Vaticano e la Procura che riguarda la famosa tomba di De Pedis in Vaticano. Questa è una cosa in più che non si è mai saputa, e sono convinto che se la segreteria di Stato la porterà alla vista, a poterne parlare con Papa Bergoglio, sono sicuro che Bergoglio interverrebbe. Lei ha avuto, Faenza, una fonte certa che ci sia stata una trattativa, sì, sul, sì, fatto che paradossale, guardi, che lo sa anche Pietro sa anche i nomi, e ovviamente non è un nostro dovere fare i nomi. Secondo me, quando dicevo prima, il giornalismo investigativo potrebbe avere l'occasione per indagare su questa traccia. Allora, aspetti un attimo. Solo. Pino Nazio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco un giornalista investigativo. Pino Nazio è un giornalista, ha scritto Il segreto di Emanuele Orlandi, ha scritto Papa Wojtyła, la tomba del boss, la banda magliana, Sovera Edizioni, è uscito qualche anno fa. Pino, tu sai qualcosa di questa trattativa, di cui pare sia uscito qualcosa soltanto con il film di Faenza, tra Vaticano e, diciamo, e gli inquirenti che indagavano su questo paradosso di una tomba di un boss della banda magliana seppellita in una basilica romana? Senza nulla togliere al grande lavoro che ha fatto Faenza, nel libro già c'era scritto, ma già c'era nei servizi che avevo fatto per chi l'ha visto, nel senso che di questo intreccio, fin dalla telefonata che diceva di andare a cercare nella Basilica di Santa Apollinare il motivo per cui De Pedis si trovava là sotto, c'era, è emerso questo intreccio. Ti dirò di più, il vicariato ha scritto personalmente a me, alla trasmissione di chi l'ha visto, per dire: noi non abbiamo nulla in contrario che venga rimossa. Il problema è che mi sembra di... Quindi sapevano che c'era stata messa? Ma certo che lo sapevano, l'autorizzazione è venuta direttamente. Cioè, come si fa a seppellire un cadavere oggi? Ma nemmeno fosse di un santo uomo, se volessero metterlo dentro una chiesa così centrale, beh, sarebbe possibile. Chi ha scritto a Poletti chiedendo di seppellire l'Idepedis, ha scritto che era una guida per i giovani. La lettera ufficiale del certo. signor Vergari a Poletti dice seppelliamolo lì perché questa è una guida spirituale per i giovani, quindi puoi capire certo, il dandy, il nero, quelli lì, dietro, certo. No? Erano giovani anche quelli, a quel tempo erano giovani, quelli della banda della Magliana. E lui li guidava, in parte li guidava sicuramente. Senti, no, una cosa fondamentale, mi sembra che emerga pure dalla trasmissione e probabilmente emergerà anche dal film di Faenza, è che tutti sanno grosso modo come sono andate le cose, gli elementi sono chiari a tutti, ma la verità processuale non c'è, cioè non si riesce ad arrivare a un processo che la stabilisca e questo succede in tantissimi casi ovviamente. È tipica italiana, fermo un attimo Pino, allora facciamo così, noi adesso ci fermiamo un secondo, diamo le informazioni di pausa, tutti facciamo un attimo di riflessione, riprendo con te che tu mi devi sintetizzare, visto che sei bravo, in un minuto e mezzo esattamente qual è la verità che tutti sanno ma non è uscita processualmente, perlomeno come ipotesi, come supposizione, qual è il tuo libro, quella di Faenza, quella di Pietro Orlandi, perché tutti giriamo insieme alla stessa storia, ma tutti ce lo diciamo, è stato un scellerato, una scellerata azione in cui lei è rimasta vittima, in cui c'è di mezzo, ma la vita organizzata, parti corrotte del Vaticano e probabilmente anche qualcos'altro in più, in cui nessuno poi ha interesse che venga fuori. Fermiamoci un attimo, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando del caso Manuela Orlandi, anche se in teoria non dovremmo più parlarne perché l'inchiesta dopo 31 anni si è chiusa qualche mese fa in Cassazione, nessun colpevole, non se ne sa nulla, una vicenda molto intricata, ricordo Manuela Orlandi scomparsa nel giugno 1983, l'anno dopo subito qualcuno addusse questa scomparsa a una sorta di sequestro per ottenere la liberazione di Aliyev K, che aveva attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II, poi questa cosa lasciò il tempo che trovava. Nel 2005 venne fuori la pista De Pedis, Renatino De Pedis, il boss della banda della Magliana, seppellito non si sa perché dentro una chiesa di Roma, Santa Pollinare, pare ci siano dei contatti c'erano realmente, perché si sa che lo IOR di Monsignor Marcinkus riciclava denaro sporco in qualche maniera che ottenevano dalla banda della Magliana, però su questo è rimasto sempre tutto molto sfumato. Io volevo, come ho promesso prima, visto che molti mi chiedono ma la trama ve la tenete per voi, Pino Nazzo, che è un giornalista che da tantissimi anni, lavorando a Chi l'ha visto e con libri che ha scritto lui, segue questo caso, mi fai una sintesi velocissima di tutte le ipotesi che sono state fatte su Manuela Orlandi? Ah, tutte le ipotesi sono tante, io ti dico quella, diciamo, più accreditata. Andiamo all'osso proprio, la più accreditata. Beh, l'osso, allora, io ti dico l'ultima, quella più accreditata e che poi anche nel mio libro è quella che le casse vaticane ridotte all'osso perché all'epoca si sostenevano Solidarnosc e i movimenti antimarxisti in America Latina vedono a un certo punto il fallimento anche del Banco Ambrosiano e siccome sia la banda della Magliana ma soprattutto la mafia che aveva il suo ragioniere a Roma in Pippo Calò aveva messo centinaia di miliardi all'interno di questi due istituti e non è contenta certo delle scuse quando gli vanno a dire purtroppo è fallito il Banco Ambrosiano adesso non possiamo pagare e parte il ricatto e parte su Emanuela perché era l'anello debole di quella catena, era l'unica persona che non era stata difesa appunto perché non si pensava che la figlia di un messo vaticano potesse essere appetibile, ce n'erano altri di obiettivi ma quegli obiettivi erano protetti. Che questa sia la ricostruzione, ci abbiamo degli elementi a conforto. Cos'è un elemento di ricatto? Rapiamo una ragazzina se non ma io ti faccio una cosa, dalle versioni romanzate alla realtà giornalistica, con gli strumenti che avevano, diciamo, la malavita organizzata, ma facciamo prima a sparare a qualche cardinale per mettere un po' di paura, scusa, piuttosto che rapire con tutti i rischi una ragazzina e tenerla come ostaggio? Beh, naturalmente sparare al cardinale fa molto più rumore che far sparire nel silenzio una ragazzina senza dire che è stata rapita, perché non dimentichiamoci che questo ricatto passa sotterraneo e la prova che questo ricatto ci sia stato ce la dà lo stesso Vaticano. Il Vaticano non dice nulla, non accetta mai una rogatoria, ma fornisce una cassetta agli inquirenti in cui c'è l'intercettazione del famoso codice 158, vale a dire la persona che poteva trattare direttamente con il segretario di Stato. Voi pensate se non c'era un ricatto in piedi come un qualsiasi cittadino che telefona in Vaticano gli risponde dall'altra parte il segretario di intervistato, come se io telefono a Palazzo Chigi e mi parlano Renzi. Evidentemente questa è la certezza che il ricatto era in atto, ma la certezza ce n'è data da un elemento fondamentale, dal fatto che poi il Vaticano alla fine di tutto il braccio di ferro sullo Iore e sul Banco Ambrosiano paga. Il Vaticano tira fuori 380 miliardi, credo, all'epoca per il fallimento, che probabilmente non doveva pagare. Quindi il ricatto è andato a buon fine, purtroppo per Emanuele invece è andato molto quindi, male. Quindi, diciamo, Emanuele Orlandi valeva comunque 380 miliardi, quindi la scelta era stata fatta giusta nella mente criminale di chi l'ha rapita. Beh, certo, ma proprio di là ha fatto tanti appelli come nessun papa per nessun rapito, per nessun scomparso, per nessuna vittima. Era evidente che c'era questo canale aperto ed era anche altrettanto evidente che il Vaticano non aveva interesse a farlo uscire, a maggior ragione a distanza così di tempo. Quindi il lavoro di Pietro è encomiabile, il film è encomiabile perché sono tutti tentativi di cercare Senti, di... Perché allora secondo te però Emanuele è scomparsa? Non è tornata a casa alla fine della trattativa, come forse era la cosa migliore per tutti? Se diamo retta alla versione di Sabrina Minardi, è finita, purtroppo, pace all'anima sua, all'interno di una betoniera in quel di Turbaianica. Però poi quando ci sono i rapimenti, altri casi ce lo confermano, ci possono essere degli incidenti. Ecco, su questa parte è ancora quella oscura e soprattutto è quella che fa dire a Pietro: io voglio cercare mia sorella ancora viva. Pietro Orlandi, rispetto alla versione di Pino Nazio, collima con quelle che sono le tue convinzioni, quello che in tutti questi anni hai pensato e immaginato? Ma guarda, è una delle ipotesi che è stata vagliata, però purtroppo non c'è stata mai la prova schiacciante. Le prove che sono a carico, diciamo, degli elementi della banda Magliana, quello che mi fanno pensare che loro hanno avuto un ruolo, ma un ruolo di manovalanza. Al momento le prove che ci sono riguardano il ruolo di manovalanza nel sequestro. Questo lo dice anche Pignatone, che fa la richiesta di archiviazione. All'interno della richiesta di archiviazione scrive: nonostante tutto esistono elementi indiziari che hanno avuto riscontro nel coinvolgimento di persone legate alla Magliana nel sequestro di Emanuele Orlandi. Quindi questi sono indizi che secondo me andavano approfonditi invece di archiviare. Però questa è una delle ipotesi probabili, diciamo, quella che ha seguito la procura nell'attuale inchiesta. Però voglio sapere cosa pensa lei, Pietro Orlandi. Cioè, lei, innanzitutto, prima domanda: lei pensa che sua sorella al tempo potesse essere un elemento forte per fare questa sorta di ricatto o questa sorta di trattativa? Era sufficientemente, diciamo, prezioso per il Vaticano cedere a una richiesta che aveva in ostaggio la figlia di un funzionario, una ragazzina? No, guarda, io ma è un mio pensiero. Cioè, una ragazzina, anche se cittadina vaticana, non poteva essere l'oggetto di un ricatto molto pesante. Lo penso anch'io, sai perché lo dico? Perché lo penso anch'io. Dall'altra parte potevano dire: pazienza, non mi interessa. Sparirà una ragazzina, non mi sembra che sia un problema. È servito soprattutto per alzare l'attenzione e mettere sotto pressione alcune persone. E il ricatto era qualcos'altro. E forse quel ricatto è stato raccontato in quei contatti telefonici che avevano direttamente con il segretario di Stato. Forse queste persone avevano un ricatto molto forte e Emanuela gli è servita per alzare l'attenzione, perché in quei giorni, ti assicuro, forse non c'era giornale in tutto il mondo che non parlava di questa vicenda, soprattutto quando Giovanni Paolo II ha fatto quegli appelli. C'era la locandina in tutta Roma, mi ricordo, l'abbiamo ancora. Quindi, fu una cosa mai accaduta prima per un cittadino che scompare. Secondo me quindi gli elementi della Magliana per me possono aver avuto un ruolo, ma di manovalanza. È quello che poi racconta anche la Minardi, perché a De Pedis, secondo il racconto della Minardi, gli era stato chiesto, ordinato, e siccome secondo me De Pedis voleva salire di livello facendo riferimento a Mafia Capitale, che c'era il mondo di mezzo, il mondo di sotto, sopra e il mondo di sotto, evidentemente De Pedis voleva passare al mondo di sopra e per questo in qualche modo si metteva a disposizione di quelle persone e ha fatto il favore a qualcuno. Il probabile omicidio di sua sorella è stato questo il favore che ha fatto, l'ha fatta scomparire? Ma guarda, io sinceramente non riesco, ma non perché mia sorella, a parlare di omicidio, perché è quella la stessa cosa che ho detto a Papa Francesco quando mi ha detto Emanuele Stancello è morta, diciamo così, e gli ho detto non c'è, al momento non c'è la prova né della vita né della morte, quindi per me al momento è un dovere cercarla via finché non c'è la prova della morte. Roberto, spero che lei mi aiuti a cercare la verità. Fermo un attimo, Roberto Faenza, esiste nel suo film questa possibile scappatoia? Il fratello, giustamente, chiunque ha diritto di farlo, è sacrosanto, pensa ancora ci sia una possibilità, dice: finché non vedo che sia morta, per me ancora può essere viva. Esiste questo spiraglio nel suo film che ci possa essere una possibilità? Ne sono state fatte tante, sta in un altro paese, ha cambiato vita, ha cambiato identità, che possa esserci ancora Emanuela Orlandi viva? Dunque, intanto complimenti per la passione che lei mette nel trattare la questione. E la metto in tutte le cose in cui lavoro. No, ma avverto proprio un sentimento forte che mi piace. Guardi, intanto vorrei fare una precisazione. La banda Magliana non è mai esistita, è una banda, come dice Massimo Carminati, di straccioni e di accattoni, che è stata esaltata dai romanzi e dalla televisione per coprire un'altra banda, che è quella vera, quella dei Testaccini, di cui il capo era De Pedis, che era la vera banda che teneva le fila con i poteri forti, con i politici. Se si vede il mio film capisce anche chi sono i senatori collegati. Ma forse questo è il problema del suo film, che si riconoscono. No, io penso che sia molto importante intanto scoprire che i romanzi e la televisione hanno depistato l'opinione pubblica, perché la banda della Magliana non ha nessuna capacità di intervenire veramente a livello profondo sulla situazione del però paese. Faenza, lei che è uomo anche diciamo di fiction, sa bene che banda della Magliana suona meglio che banda Pestaccini. Ho capito, però è un'assurdità, anche perché è un modo per depistare la verità. Cioè la banda della Magliana non ha nessun rapporto né con i politici né con i servizi segreti né con soprattutto il Vaticano. I Testaccini sì, e questo è provato anche dalla magistratura. Quindi intanto secondo me questo è già una cosa importante. Perché i romanzi e la televisione hanno così insistito sulla banda della Magliana? Perché era comodo non parlare delle cose vere, dei nomi veri che hanno operato. Allora, quindi penso, c'è un complotto dietro anche diciamo a tutto l'apparato di fiction sulla banda della Magliana. Lei conosce meglio di me come vanno i media, sì, no? Sì. Quando si fa spettacolo si segue lo spettacolo, e quando è difficile seguire le piste vere non si seguono le piste vere. Io non sono soltanto un regista, faccio anche ricercatore, adesso non per autoimbrodarmi, ma ho fatto un libro sul caso Kennedy che si chiama Il malaffare, che Jean Garrison, il procuratore che ha fatto l'inchiesta, cita come fonte privilegiata per seguire certe piste. Allora non sono uno che mi invento le cose. Ma l'ho detto in partenza di questa trasmissione, però le riconosco il fatto che lei faccia cronaca. Questo lo dico non per imbrodarmi, soltanto per dire che non sono uno che così che va alla rinfusa a cercare le fonti. Abbiamo fatto un lavoro molto serio e credo che questo fatto, che non si, tra l'altro il giornalista che è intervenuto, io lo conosco bene, che ha scritto un libro bellissimo, il mio film è totalmente in linea con quello che dice lui, c'è soltanto una differenza, che io penso che la banda della Magliana sia un modo per coprire una parte importante della verità, che non è la banda della Magliana. Diciamo come quelle mitologie che crea la storia per dare un corso diverso a quella che è la memoria storica, esattamente. Sì, molto facile, ma poi tra l'altro il problema è che la procura ha archiviato le indagini, non vuol dire mica niente, cioè la procura può anche fare degli errori. Noi nella storia abbiamo sempre visto che la verità giudiziaria non sempre coincide con la verità storica, quindi la procura può anche riaprire l'inchiesta. Io penso che, adesso non è che mi voglio illudere, però la scena finale di questo film, a mio avviso, potrebbe dare una traccia per riaprire l'inchiesta. Lei come sa esiste la riscrittura poi postuma di tutto, anche il mito del risorgimento in cui siamo cresciuti lo sta demolendo Pino Aprile dicendo era una banda di assassini. No, ma non Pino Aprile dice delle cose che io condivido pienamente, dico solo che la banda della Magliana non è quella che noi dobbiamo cominciare a discutere, è un'altra cosa, è la banda dei Testaccini. Fermo un attimo, Faenza, mi devo fermare un minuto meno, pochi secondi, poi mi spiega bene esattamente la differenza tra i Testaccini e la banda della Magliana, perché come l'ha detto e vogliamo capirlo tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, mi ero interrotto con Roberto Faenza. Ricordo il film di Roberto Faenza, La verità sta in cielo, sarà nelle sale cinematografiche dal 6 ottobre. È un film che già sta facendo polemica perché tocca con un'indagine accurata, non soltanto attraverso una rilettura di fiction, quello che è il caso Orlandi, un caso da 31 anni comunque dibattuto e sulla quale ancora da un punto di vista ufficiale non c'è una soluzione. Mi spiega un po' meglio Roberto Faenza la differenza fra la banda della Magliana e i Testaccini. Sono due quartieri di Roma, per chi non è romano, Testaccio e Magliana. Perché il Testaccio è stato tenuto in ombra rispetto alla Magliana nella sua espressione di malavita organizzata? Allora, la Magliana erano semplicemente, ripeto, come dice Massimo Carminati, degli accattoni e degli straccioni che venivano usati per delle azioni così pseudocriminali, malavita romana, sparatorie, cose che non c'entrano niente. Lavoro sporco banale. Lavoro sporco, bravo, basso lavoro sporco. I Testaccini sono un'altra cosa. Sono una banda, che secondo me definire la banda non è neanche proprio, sono un gruppo organizzato agli ordini di De Pedis che tiene le fila con il vero potere, potere costituito, senatori della Repubblica, politici. Pensi che De Pedis aveva preso casa nell'appartamento accanto all'ufficio di Andreotti, tanto per dirle qualcosa. A piazza San Lorenzo in Lucina? Era lì? A San Lorenzo in Lucina era, mi pare. Beh, già per dirle, cioè, usciva di casa e stringeva la mano ad Andreotti. Ma davanti c'è una caserma dei carabinieri di fronte. Bravo. Tra l'altro pensi che De Pesi, che era latitante, girava indisturbato per Roma, anzi, secondo i magistrati addirittura veniva ospitato in una in un appartamento dei servizi segreti a Villa Borghese. Questa è la vera scusa, banda. Abitava a piazza San Lorenzo in Lucina, come usciva dal portone l'ufficio Andreotti c'è la caserma dei carabinieri, esatto, sulla destra. Bravo. Allora, però questa è la vera banda. Perché il giornalismo italiano non ha indagato su questo? Perché è molto scabroso, cioè vuol dire fare i nomi e cognomi dei politici, e soprattutto De Pedis è un uomo del Vaticano, cioè, addirittura dicevano che fosse figlio di Poletti, questo è probabilmente fantascienza, però andava continuamente agli incontri con i cardinali, era un intimo di Marcinkus. Ma anche di Andreotti dicevano che era figlio di Pio XII, cioè di tutti, vabbè, figuriamoci. Infatti penso che sia fantascienza, sì, questo non gli do nessun ascolto, però era sicuramente un uomo legato al Vaticano, intimo di De Pedis, di Poletti, su questo non ci piove, ci sono tutti i documenti. Ecco, perché il giornalismo italiano non ha fatto questa indagine? Se lo chieda un po' perché. Pino Nazio, io non mi sono mai occupato di Emanuele Orlandi, ma tu te ne sei occupato, perché non è stata fatta questa indagine? No, in parte è stata fatta, e Banda della Magliana è una sintesi giornalistica, ha ragione. Quindi sei d'accordo con Faenza? Ma Faenza sostanzialmente dice una cosa che è in tutti i libri che parlano della Banda della Magliana, cioè questa banda che abbiamo chiamato giornalisticamente della Magliana, come oggi parliamo di Mafia Capitale, ma come sintesi, non è che a Roma c'è un'organizzazione mafiosa, una cupola che controlla tutto, però tutti parlano di Mafia Capitale. Era sostanzialmente la sintesi di tre bande, quella dei Testaccini, che è esattamente quello che descriveva Faenza, quella della Magliana e quella di Ostia, che si sono ritrovati insieme per un periodo, poi hanno litigato, tant'è vero che De Pedis viene ucciso da alcuni esponenti della Banda della Magliana, perché non ha rispettato degli accordi, perché secondo lui non dava i soldi per sostenere le persone che erano in carcere. Quindi questa differenza c'è senz'altro, si è cercato di indagare, ma c'è stato anche tanto il tentativo di insabbiare, perché alcune verità non sono comode. Mi permetti di dire solo una cosa, certo, in differenza, che secondo me è giusto sottolineare, siccome alcuni hanno scritto libri sulla Banda della Magliana, utilizzando pseudonimi, finti nomi per non essere attaccati, un pregio che va sottolineato di questo film è che ha il coraggio, come ho fatto io nel mio libro d'altronde, di fare nome e cognomi. Cioè, se uno racconta una storia e pensa che questa storia è fondata e si basa molto spesso su atti processuali, deve avere il coraggio di metterci la faccia e di mettere i nomi dei protagonisti. Faenza, si aspetta, oltre le ritorsioni, anche degli aspetti legali per il fatto che lei abbia fatto nome e cognomi? No, io ho un'unica paura, che siccome già sono arrivate delle avvisaglie degli avvocati dei malavitosi ancora in circolazione, chiedano il sequestro del film. Ecco, questo mi preoccupa un po'. Cioè, già degli avvocati gli hanno chiesto di sequestrare il film, prima ancora di vederlo. Non ho detto questo, ho detto che gli avvocati di alcuni malavitosi già in circolazione, sì, ancora in circolazione, hanno cominciato a chiamare la RAI per sapere cosa dice il film, far vedere il film, se lo vadano a vedere per conto loro. Siccome poi ho parlato con dei magistrati amici, mi hanno detto, guarda che questa è gente che quasi certamente chiederà il sequestro, però non ho detto che lo chiederà. Beh, sarebbe Faenza, una bella botta di culo per lei, mi scusi se no, io lo sequestro. Non è una bella botta di culo, perché io ho già avuto un film tanti anni fa che è stato tolto dalla circolazione, Forza Italia, non è mai più uscito nelle sale, quindi non è per me affatto una botta. Sì, ma oggi, grazie a Dio, rispetto a tanti anni fa, ci sono dei mezzi di diffusione formidabili. Lei ci crede? Sì, ci credo, mi creda. Beh, speriamo che sia vero. Oggi è difficile non far uscire un film, non far vedere una cosa che comunque deve essere vista. Comunque io la preoccupazione ce l'ho. Ecco. Pietro Orlandi, l'ultima domanda la faccio a lei. Cosa si aspetta adesso che accada? Faccio riferimento a quello che ha detto Roberto e Faenza poco fa rispetto a questa scena finale. È una cosa della quale sono venuto a conoscenza proprio durante la lavorazione del film. E secondo me era talmente importante che, parlandone con Roberto, ho detto questo è il caso di inserirla all'interno del film. Perché senza entrare in dettagli per rispetto no, non vogliamo fare lo spoiler del film. No, non dobbiamo dire qual è la scena finale, ma c'è un finale che farà parlare, diciamo. Sì, perché non è legata esclusivamente alla questione della sepoltura. Però dopo quella scena ci saranno persone che non potranno più dire no, noi non sappiamo nulla. Ecco. Quindi lei l'ha visto il film, Pietro? Sì, sì. Ieri quindi, c'è stata la presentazione. Quindi lei è convinto che questo film crea comunque scombussolamento? Sì. Sì. Se, soprattutto, guarda, dico, se la stampa e i media supporteranno positivamente quella scena finale, perché quella è importante. Allora, posso fare una richiesta e una sfida ai tre ospiti? Aspettiamo una decina di giorni che esca il film, poi ci risentiamo tutti e facciamo la valutazione di quello che è successo. È d'accordo, Faenza? Voglio fare i complimenti al giornalista, perché io ho letto il suo libro e mi è piaciuto molto. L'ho anche usato, devo dire. Grazie. Pino Nazzo ci sarà anche Pietro Orlandi. Noi ci sentiamo. Abbiamo cercato per quanto possibile di fare un'operazione di chiarimento. Difficile dipanare una vicenda così intricata. Ma se veramente il film di Faenza riaprirà alcune porte che erano suggellate, io credo molto oggi nella diffusione dell'informazione che non va attraverso i canali tradizionali. Ci credo molto, al di là della ipervalutazione che ne è stata fatta. Oggi è molto difficile nascondere una verità. È molto difficile tenere una testimonianza nascosta, coprire con un velo. E non basta censurare un film. Gli avvocati possono censurare questo film, se Faenza vuole, lo vede il mondo intero dopo 5 minuti. Basta che lo metta in rete. Ci sentiamo domani. Anzi,